Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, accomodatevi nel salotto buono di questa casa. Non è un albergo, vorrei vedervi numerosi e sono sicura che staremo bene insieme. Oggi una puntata, devo dire, speciale. Alberto, ciao. Intanto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Già ieri è stata una giornata speciale, noi la riprendiamo un po'. Sì, ieri era il 20 novembre, la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, una giornata molto importante che anche noi con la nostra trasmissione vogliamo sottolineare, vogliamo mettere il punto esclamativo, magari qualche punto interrogativo. Noi l'abbiamo anticipata a essere benessere con l'intervento di un ospite, devo dire, d'eccezione che ci raggiungerà nuovamente tra breve, che è Tori Hayden, e devo dire che i libri che ha scritto sono davvero saltati in testa alle classifiche. Una donna da 24.000 copie. Da 24 milioni di copie, milioni. Quelli erano i baci. Non è vero! Però ci piace. Però talmente tanto. Esatto, ci piace talmente tanto che vanno bene non solo i baci, ma anche i suoi milioni di copie. Siamo molto onorati, contenti di averla con noi. Ha un enorme seguito anche in Italia e, come io dirò, sono proprio un suo fan. Ma proprio per entrare nel clima dell'intervista con Tori Hayden, abbiamo ospite da 24 milioni di punti, e anche da 24.000 baci, perché questo non lo sappiamo. Vedremo come si comporta. Buongiorno alla dottoressa Fiammetta Casali, che è presidente del comitato provinciale per l'UNICEF di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Il tema della tutela dei diritti dei bambini è, nonostante siamo alle soglie del terzo millennio, ancora fondamentale. Quali sono i diritti su cui voi, UNICEF in particolare, lottate, combattete e lavorate ogni giorno nel mondo? Beh, il punto principale resta il fatto che la Convenzione sancisce una serie di diritti che devono essere tutti riconosciuti parimenti ai bambini. Questa è una cosa molto importante, perché il diritto alla sopravvivenza porta poi con sé il diritto allo sviluppo e alla protezione, altrimenti non ci sarebbe una crescita e uno sviluppo del bambino. Tutti i diritti sono importanti, certo, purtroppo in alcune parti del mondo ci si deve ancora parlare di sopravvivenza e di protezione. In altri ci si può invece, come nel mondo occidentale, occupare maggiormente di diritti di partecipazione o di sviluppo. Tra l'altro, dottoressa Casali, l'UNICEF parla dei bambini del mondo ai bambini del mondo, e voi anche avete un programma che spiega e racconta i diritti dei bambini ai bambini italiani, e succede questo nelle scuole. Che cosa fate? Diciamo che una delle nostre, i nostri impegni maggiori nei comitati come l'Italia, dove c'è un comitato nazionale, è proprio quello di diffondere i principi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Sì. Tra questi c'è il fatto che il bambino non è più oggetto di diritti, ma è soggetto di diritti. Questo significa che i bambini devono conoscere i propri diritti, riconoscendo i propri diritti diventano in grado di riconoscere i diritti degli altri e di capire che quindi certi bisogni sono uguali in tutti i bambini del mondo e quindi devono essere rispettati. E questo è il lavoro che facciamo noi nelle scuole, dalla scuola materna fino all'università. Senta, dottoressa, ma come rispondono i bambini di oggi rispetto a quelli di ieri, ad esempio? Si ricorda magari un episodio, un bambino o un ragazzino che l'ha stupita? Dunque, i bambini stupiscono sempre abbastanza. È una cosa che mi ricordo, una delle prime volte che andavo nelle classi, erano dei bimbi delle elementari, adesso non ricordo esattamente, una seconda, una terza elementare, erano tanti, quindi erano seduti per terra e io stavo raccontando loro alcune cose e anche qualcosa riguardo ai bambini che sono costretti a lavorare, bambini piccoli come loro, eccetera. E a un certo punto vedo due bambine che si parlano e li guardo un po', e allora loro mi dicono subito: no, guarda che non stavamo chiacchierando, ci stavamo dicendo ma com'è possibile vivere così. E questo mi ha detto va bene, quello che vi volevo dire l'avete capito. Sono sempre avanti i bambini, basta stimolarli, Alberto. Sì, penso poi anche a tanti bambini con cui lavoriamo noi nel fare per esempio il cerchio delle emozioni, il cerchio dell'ascolto nelle scuole elementari, quarta e quinta elementare. Quanti bambini riescono a raccontare per la prima volta che credono di avere diritto ad un clima genitoriale, ad un clima familiare un po' diverso? Tanti si lamentano per esempio del fatto che spesso vengono picchiati dai fratelli maggiori e non si sentono protetti, e per noi è proprio curioso sentirglielo dire. E tanti altri dicono proprio che vorrebbero avere la loro mamma e il loro papà più tempo vicino a loro, e credo che questo diritto al tempo in una società dove tutto corre sia un bel pensiero su cui riflettere. Cosa ne dice la nostra dottoressa Casali? Sicuramente, anche perché i bambini di oggi hanno tanto e hanno poco, credo che questo lo sappiamo tutti molto bene, nel senso che hanno tante cose dal punto di vista degli oggetti, e hanno poco per quanto riguarda il tempo. È un problema che ha a che fare naturalmente con i genitori che lavorano, ma anche che ha a che fare proprio un po' con l'atteggiamento degli adulti nei confronti dei bambini, e questo è il punto su cui a noi piace lavorare: il diritto che il bambino ha di partecipare e il diritto di ascolto che il bambino ha. Ascolto vuol dire che il bambino parla e i genitori e gli adulti si mettono nell'atteggiamento di voler sentire quello che il bambino ha da dire, non semplicemente di ascoltare, insomma. E questo è sicuramente importante. Alberto, noi tante volte in trasmissione parliamo di genitorialità sociale. Mi piace più dire del villaggio, no? Perché ogni coppia di genitori è potenzialmente anche una coppia di genitori di altri bambini. Sì, credo che questo sia proprio un diritto che abbiamo più volte reclamato anche noi dai nostri microfoni. Penso che i bambini delle nostre comunità abbiano il diritto di crescere in un villaggio reale, non solo in un villaggio globale, e che tutti noi adulti della comunità sentiamo il dovere di crescere i bambini di tutti, cioè i bambini che vivono nella nostra comunità. E credo che questo sia un pensiero su cui continuare a riflettere non solo oggi ma anche domani e dopodomani. Dottoressa Casali, è d'accordo? Sì, assolutamente, anzi in questo senso vorrei riportare l'attenzione sulla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, nella quale si codificano quelli che sono gli impegni degli stati e dei governi degli stati che hanno ratificato la convenzione, ma si propone anche il fatto che tutti gli adulti che hanno a che fare con i bambini sono ugualmente responsabili, ciascuno per la propria parte, del benessere e del rispetto dei diritti dei bambini. Quindi è un voler coinvolgere tutta la parte adulta della popolazione, che si formi una cultura dell'infanzia che possa aiutare poi a essere accogliente, a essere una comunità accogliente per i bambini. Noi come UNICEF abbiamo ad esempio in Italia il progetto Ospedale Amici dei Bambini, il progetto delle città amiche dei bambini, che sposa proprio un po' questo principio. Grazie dottoressa Casali per essere stata con noi. Grazie a voi per avermi chiamato. Grazie ancora. E noi abbiamo il grande onore, ma l'abbiamo già annunciato ieri, adesso lascio l'onore a te di salutarla e presentarla. Guarda, mi fai un regalo meraviglioso, perché Tori Hayden, che è ospite qua con noi, fa parte della mia mitologia personale. È veramente una delle scrittrici che io ho letto di più, tra l'altro proprio il suo libro Una bambina, il libro che l'ha resa famosa in tutto il mondo, è stato per me un libro di formazione, sai che mi sono poi dedicato molto al tema dell'abuso e maltrattamento all'infanzia, e Tori ha veramente disegnato in quel libro l'immagine di una bambina, così come te la puoi poi trovare in una scuola per esempio, e ci ha fatto vedere cosa davvero fa bene a un bambino che si trova in difficoltà. Adesso è in Italia per presentare il suo ultimo libro, La foresta dei girasoli, uscito per Corbaccio Editore, e noi abbiamo l'onore di averla con noi. Ho parlato tanto io, facciamo parlare lei. Buongiorno Tori. Buongiorno. Che bello riaverti di nuovo qui con noi. Tra l'altro Alberto diceva un mio mito, ma è il mito anche di 24 milioni di persone, no? Sì, è veramente. Cioè, direi un mito collettivo. È tradotta in tutto il mondo, pensa che si stavano già scrivendo tutti i suoi fans sapendo che era arrivata in Italia, e tra l'altro in Italia ha venduto più di 1 milione di copie, quindi è davvero un'autrice molto conosciuta e molto affermata. Allora, dopo tutti questi complimenti assolutamente meritati, direi di andare al sodo, Alberto. E Tori, i protagonisti delle tue storie sono sempre bambini davvero speciali. Noi, Alberto, abbiamo scelto di così darne un esempio ai nostri ascoltatori partendo dall'incipit di un suo romanzo. Era una bambina piccola e dall'ossatura minuta, con il mento appuntito da folletto e gli zigomi insolitamente marcati. Aveva i capelli neri e lisci lunghi fino alle spalle, ma tagliati piuttosto male, come se fosse stato un altro bambino a tenere in mano le forbici. Erano gli occhi, tuttavia, a caratterizzare il suo viso. Enormi, sporgenti e di un colore scuro e liquido come acqua in penombra, dominavano le altre fattezze. Non era propriamente quella che definirei una bella bambina, ma aveva un aspetto che colpiva in modo un po' irreale, tanto che quando sollevò la mano per scostarsi i capelli dal viso, mi aspettai quasi di scorgere un paio di orecchie da elfo. Tori, uno dei meriti dei tuoi libri è che i bambini di cui parli sembra proprio di vederli così vivi, in carne e ossa davanti a noi. I bambini infatti di cui parli e racconti sono stati proprio bambini con cui hai avuto a che fare nella tua carriera di terapeuta. I think that, I mean, at my heart I've always been a writer. Ho sempre voluto nel profondo del mio cuore diventare una scrittrice. Fin da quando avevo 5-6 anni ero abituata a mettere un'etichetta su tutti i miei giocattoli, sui disegni che facevo. Insomma, scrivevo ovunque perché per me era un metodo efficace per elaborare il mondo, per capire meglio quello che vedevo di fronte a me. È sempre stato molto naturale per me scrivere, e quando poi mi sono trovata a lavorare con degli studenti all'interno di una classe, ho immediatamente percepito che quei bambini erano degli individui straordinari, e quindi per me era molto facile capire questi esseri straordinari proprio attraverso la scrittura. È iniziato tutto in questo modo. È così che sono diventata una scrittrice. Mai avrei pensato che i miei scritti un giorno sarebbero stati pubblicati. Per me era soltanto un modo di mettere giù quello che vedevo, fino a quando un giorno mi resi conto che avevo scritto ben 124 pagine nel descrivere una bambina. Quindi ho capito che non era più semplicemente un gioco, ma era diventato un libro. Ed è così che nacque una bambina bellissima. Non c'era nessuna intenzione cognitiva dietro questo processo, ma era soltanto un metodo naturale per rielaborare la realtà. It sort of went from there, but there was never a cognitive intention to make a character of these people. Alberto, incredibile, eh? Sì, è veramente affascinante. Credo che però ci sta dando anche un metodo di lavoro, cioè quando lavori con i bambini vedi talmente tante cose, ricevi talmente tanti stimoli dalla relazione con loro che non puoi semplicemente lasciare andare tutto e pensare che hai tutto dentro la tua memoria. Credo che scrivere quello che succede, quello che vedi, quello che capita nell'interazione con i bambini con cui lavori sia un ottimo metodo poi per poter riflettere, pensare, rielaborare ed eventualmente inventare strategie. Alberto, tu dici con i bambini con cui lavori, ma io penso che sia un'indicazione che possiamo dare anche ai nostri genitori all'ascolto. Tante volte i bambini ci crescono sotto mano e noi non ce ne accorgiamo, quindi non solo fotografie, non solo filmini, ma anche un po' di scrittura, fermare i momenti attraverso delle semplici frasi, delle parole suggerite dal cuore, dall'emozione di quel momento, può aiutarci a costruire veramente un libro personale che ci racconta la crescita del nostro bambino. Te lo dico sempre, te lo devo ribadire, stai diventando troppo brava e credo che le nostre mamme e papà debbano davvero far tesoro di quello che ha appena detto Nicoletta, poter fermare su carta con le proprie parole del cuore quello che sta succedendo nella relazione tra noi e i nostri figli è un tesoro enorme per noi e per loro, e a noi genitori poter rileggere poi nel tempo cosa c'è successo con i figli è davvero uno strumento di straordinaria ricchezza educativa. Non diventeremo Tori Hayden no, purtroppo però ci lasciamo ispirare. Certo, no, si impara sempre dai grandi. Certo, adesso Tori, la nostra puntata oggi è proprio dedicata una riflessione allargata sui diritti dei bambini, approfittando del fatto che ieri era la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia. Tu hai sempre raccontato nei tuoi romanzi storie di bambini molto speciali, storie che per esempio chi lavora poi nella clinica con i bambini potrebbe dire sono storie di bambini particolarmente vulnerabili. Questi bambini così fragili e vulnerabili sono sufficientemente tutelati nella società di oggi all'ingresso del terzo millennio? I think we're doing a much better job than we were. Sicuramente le cose vanno molto meglio che in passato rispetto a 10-20 anni fa. Io ho cominciato a occuparmi di questi bambini dal 1969 e da allora sono stati fatti numerosi passi avanti. In Italia vengo dai primissimi anni 90 e credo che anche qui si sia fatto tantissimo in termini di consapevolezza, di comprensione dei problemi e anche di tentativi di risolverli questi problemi. È chiaro che un segnale della civiltà è come siamo in grado di trattare i membri più vulnerabili di questa società e dobbiamo capire che proprio a questi bambini passeremo il testimone. Insomma, daremo a loro il nostro mondo e di conseguenza vale la pena dedicare sforzi e tempo per aiutarli. Very, very important to, to invest our time and our energy in helping them as much as we can. Allora, c'è ancora tanto da fare. Io penso, Alberto, che tante volte queste giornate servono assolutamente per fare una riflessione a voce alta, per confrontarsi sulle cose che sono state fatte, sui progetti futuri, ma ciascuno di noi nel suo spazio può diventare veramente promotore di cambiamento. Sì, credo che ci sia una responsabilità specifica dei professionisti che lavorano a contatto con i bambini. Devono essere davvero sempre più qualificati, sempre più competenti, ma anche sempre più capaci proprio di stare in relazione e di riconoscere il mondo delle emozioni dei bambini. E in questo senso sono molto attratto dal pensiero di Tori, che è una donna, è stata poi molto proprio una donna di scuola, una professionista di scuola. In base alla sua percezione, poi al fatto che gira il mondo, che cosa la scuola ha bisogno in questo momento di presidiare, di promuovere per i bambini che frequentano le scuole in questo specifico contesto socioculturale? Cioè, se tu potessi dare un consiglio agli insegnanti dei bambini più piccoli, scuola materna, scuola elementare, che cosa loro diresti, a che cosa devono fare attenzione in particolare? I think this is a difficult question to answer because there of course is no golden key. There's no domanda non facile a cui rispondere. Ovviamente non esiste la regola d'oro o la bacchetta magica per risolvere tutte le situazioni. Però in base alla mia esperienza sul campo, c'è da dire che la stragrande maggioranza degli insegnanti lavora bene a quello che c'è da fare. A volte vengo descritta come un'insegnante speciale, particolarmente dotata. In realtà ci sono milioni e milioni di insegnanti che fanno le stesse cose che facevo io. L'unica differenza fra me e loro è che forse io sono più brava a scrivere i libri. E dunque tutti mi conoscono per questo motivo. Però ci tengo a ripetere che sono tantissimi gli insegnanti che agiscono esattamente come si deve fare. Forse c'è una cosa che va detta. Questi insegnanti devono essere supportati e aiutati dalle direzioni scolastiche, dai presidi, dai governi, in modo che possano offrire un approccio coerente ai loro alunni e ai loro bambini. Non so se questo vale anche per l'Italia, ma sicuramente almeno nel mio paese, in Gran Bretagna, i programmi scolastici vengono tagliati, cambiati e modificati. E questo ovviamente è un danno per i bambini. Dunque la cosa più importante dovrebbe essere questa, programmi scolastici coerenti. That to me is perhaps the most significant change that could be made in terms of the help for children. E allora abbiamo parlato degli insegnanti, adesso vorremmo parlare anche dei genitori. Approfittiamo dell'amica, posso chiamarla così, Tori Hayden, che è qua in studio con noi, per chiedere anche di aiutare i genitori all'ascolto, di tutelare già nelle loro famiglie i diritti dei loro bambini. Spesso ai bambini noi genitori diamo molto, diamo troppo e magari manchiamo di tutelare le cose che sono invece importanti per renderli grandi, quindi autonomi, e renderli capaci di affrontare la vita. vita, di rendere le persone libere. Allora, Torrey, andiamo ai fondamentali per i genitori. Well, I think perhaps as we were talking yesterday about you had asked me what was the Già ieri ne parlavamo quando mi avevi chiesto quali fossero i diritti fondamentali dei bambini da proteggere. Penso che come genitori siamo consapevoli di alcune cose, ad esempio fare in modo che i nostri bambini non abbiano paure e che possano vivere in un ambiente sicuro e protetto, che non venga fatto loro del male né psicologicamente né fisicamente. Ovviamente questi sono tutti temi che noi diamo per scontato, ma a questo dobbiamo aggiungere altre due cose, secondo me, importanti. I nostri bambini devono essere liberi di essere dei bambini. Nel mondo moderno, non so se questo vale anche per l'Italia, ma è vero per molti paesi industrializzati, si ha la tendenza a spingere, ad allontanare troppo velocemente i bambini dall'infanzia. Li riempiamo di attività, scegliamo per loro le scuole migliori con il percorso scolastico più formativo, li iscriviamo a corsi di danza classica e tanto altro ancora. E questo ci fa dimenticare troppo facilmente che crescere, e soprattutto crescere bene, è di per sé un lavoro piuttosto difficile, che non è così semplice. Ovviamente i bambini imparano a farlo. Naturalmente, però, devono poter avere un momento di silenzio nella loro vita. Ed è proprio questo silenzio che manca alle volte nella loro vita. Gli manca, ad esempio, l'opportunità di giocare con i loro amici. La seconda cosa è che noi dobbiamo aiutare i bambini a esprimere le proprie responsabilità da soli. Noi come genitori a volte abbiamo la tendenza a pensare che possiamo dare forma ai nostri figli, che siamo noi a doverli trasformare in qualcosa. In realtà, noi non siamo altro che delle guide. E perciò dobbiamo aiutare il bambino o la bambina a diventare quello che loro desiderano. E a volte non è sempre facile per noi fare questa distinzione. The person we want them to be, and that's a distinction that many parents have a difficulty with. Alberto, peccato che viva in Inghilterra, eh? Altrimenti la faremmo diventare consulente fisso della nostra trasmissione. Io la chiamerei tutti i giorni, perché è ricaricante, è rasserenante, ricaricante. E io vorrei regalare ai nostri ascoltatori un breve estratto della Foresta dei Girasoli, perché immagino che siano così desiderosi di conoscerlo. Quindi andiamo a sentire un breve estratto e poi lo commentiamo insieme. Nella famiglia d'origine di mio padre non c'erano né residui cenciosi dell'aristocrazia europea, né precettori privati, né pomeriggi estivi passati piacevolmente alle feste in giardino con la musica dei violini. Figlio di un immigrato irlandese, mio padre crebbe in una fattoria di maiali nelle vaste pianure dell'Illinois. Aveva 6 fratelli. Mio padre era il 4º figlio, il 2º maschio. Non erano una famiglia povera, o almeno non così povera come tante famiglie di fattori durante la Depressione. Il tuo nuovo libro segna un po' una svolta, racconti davvero una storia che è molto centrata sul genitore quasi più che sul bambino, e è molto interessante. Cosa un lettore può trovare in più rispetto a tutto quello che hai fatto oggi per la tutela dei bambini nel tuo nuovo romanzo? Well, I think first of all it's important to understand that it's a novel and... Questo libro è un romanzo e la ragione per cui una scrittrice come me, che aveva già pubblicato 11 saggi, ha voluto esplorare il mondo dei romanzi, era che questo tipo di scrittura mi avrebbe dato l'opportunità di indagare e di andare nel profondo di temi che non avevo mai vissuto in prima persona nella vita reale. Nella Foresta dei Girasoli, il lettore capirà come in realtà ognuno di noi possa vivere la realtà del mondo là fuori in modo diverso. Ognuno di noi, infatti, ha una sua percezione della realtà e molto spesso siamo portati a pensare che la nostra percezione della realtà sia la realtà con la R maiuscola. Tutti i personaggi del libro, ad eccezione forse della figlia più piccola Megan, vengono imbrigliati da questo concetto. Pensano che la loro versione della realtà sia veramente quella che esiste. Ecco, questo è un tema importante per tutti e forse anche in modo particolare per i genitori. I genitori hanno sempre una visione molto soggettiva. Sono un po' chiusi in loro stessi, sono abituati a vedere le cose dal loro punto di vista e questo li porta ad essere giudicanti, a giudicare i loro figli sulla base di quella che è la loro realtà. Siamo spesso portati a credere di conoscere le motivazioni, le ragioni e le esperienze che stanno dietro i comportamenti dei nostri figli, anche se poi non è così. Allora magari i lettori del mio libro potranno rendersi conto di questa cosa. Si renderanno conto che molto spesso ci sono delle realtà che si sovrappongono una all'altra e questo li aiuterà a fare un passo indietro, a domandarsi veramente che cosa sta succedendo, qual è la realtà, ad esempio, dei loro figli e a domandarsi: ma questo comportamento di mio figlio da cosa dipende? Da come l'ho educato? È proprio lui ad essere sbagliato o invece semplicemente è spaventato? Ha avuto una giornata storta? O magari semplicemente ha le scarpe troppo strette? Ecco, magari se assumiamo questa prospettiva potremmo essere più utili ai nostri figli. Just the smallest bit of insight with that. I would be absolutely delighted. Tore, io prima di salutarti voglio chiederti un altro aiuto. È una giornata importante questa, che secondo me diventa ancora più importante se noi genitori impariamo a farla conoscere anche ai nostri bambini. La giornata mondiale dell'infanzia non deve essere una giornata di cui parlano solo i grandi, ma a cui educare anche i piccoli. Allora ci aiuti con le tue parole, rivolgendoti ad un bambino all'ascolto, a spiegare con parole semplici naturalmente ad un bambino che cos'è questa giornata e perché lo interessa così da vicino. I think I would simply say that adults genuinely do. Se mi trovassi di fronte a un bambino, gli direi che noi adulti davvero desideriamo aiutare i bambini, vogliamo amarli e vogliamo rispettarli. Questa giornata è proprio un tentativo di dimostrare tutto questo. Quindi oggi saremo disposti tutti quanti ad ascoltare i nostri bambini con il cuore, non più con la testa. Se un bambino avrà desiderio di dirci qualcosa, noi dovremo fare in modo di fargli capire che siamo effettivamente lì con lui, che siamo presenti e con le orecchie tese. Una delle difficoltà che a volte hanno gli adulti è che troppo spesso ascoltano con la testa e si dimenticano che è possibile ascoltare attraverso altre modalità e non soltanto con le orecchie. E quindi chiedo ai bambini, siate pazienti. E noi ce la metteremo tutta per ascoltarvi in modo diverso. And try to, you know, if they aren't heard the first time, to try and say again, we really are trying to listen. Magnifico, Alberto, grazie Tori, davvero abbiamo festeggiato. Io direi che converrebbe anche festeggiare con una bella torta oggi con i nostri bambini. Io non so se è una brava pasticcera anche Tori e Aiden. I am. Allora, sai cosa faccio, Nicoletta? Porto il mio mito personale a casa mia, abbiamo 4 bambini che vogliono celebrare la giornata e le faccio fare una bella torta, anzi una buona torta. Magnifico, allora grazie a Tori e Aiden di essere stata con noi. Alberto, noi ci salutiamo, direi che abbiamo festeggiato alla grande e abbiamo proprio fatto riserva di emozioni nel nostro cuore. Perfetto, e quindi per un altro pieno di emozioni ci diamo appuntamento sabato prossimo. Grazie, buona giornata e un bacio ai vostri bambini. Alla prossima.